c'è qualcuno? Attento 10, c'è qualcuno? Si chiama 10, avanti. Prova, prova. Prova. Ebbè Zafra. Prova, prova. Ciao Zafra. Ciao, sei Roberto? Io. Ah, ciao. Ben ascoltato. E beh, ieri là si è fatto. Ha dormito bene, sì. Capire, si è fatto tardino, vabbè. Erano molti anni che non facevo comunicazioni a lunga durata, dai. Però tanto era sabato. Domani, che sarebbe oggi, domani non avrei lavorato, anche se ho dormito malissimo, mamma mia. Io già dormo malissimo di natura e ieri, chissà perché, sono alzato a un certo orario, Anche a me capita. A volte c'è tanta roba, quindi. Oh. Ti volevo dire, sono riuscito ad ascoltare di nuovo quelli lì. Del 15, no? Eravamo forti stamattina, però ho provato a tradurre, ma non è russo, quindi anche perché il canale 15 in Russia c'hanno tutti i camionisti, quindi boh, è un mistero. Non si capisce la lingua, che cosa era? No, guarda, io infatti sull'altro l'ho anche registrata. Adesso penso di poterla anche fare ascoltare, perché arrivava in maniera non indifferente. Allora, Lovely File, vediamo se è questo, perché l'ho registrato proprio oggi. No, questo è tedesco. Aspetta, che casino. Ma cosa sarà che arriva spesso? Cioè, lo segniamo quasi tutti i giorni, indipendentemente dalla propagazione, arriva intorno al 9 il segnale. Quello è il problema, che non si riesce a capire cosa diavolo è. Dopo l'ho registrato, che non lo trovo. Ah, ecco, è andata, io ragazzi, sto mettendo. Ho un po' incasinato la cosa. Ma tu riesci a decifrarlo bene, la voce, la senti chiara? Sì, infatti te la volevo fare ascoltare. Però se non metto la data giusta, io voglio che non si senta, no? Quindi adesso, 18-19, quindi siamo a ottobre. Oh cavolo, devo aver lasciato la registrazione accesa e quindi trovo tanti di quei file, che è veramente un casotto. Roba la mattina, 24-10, così siamo 24-10, esatto. Vediamo se è questo. Sembra russo, ma chissà, magari può essere azerbaigiano, quelle cose lì, fatta la pesca. Ma guarda, a certi momenti mi sembra russo, greco non può essere, tu il greco lo conosci? No, assolutamente, guarda, la caratteristica dei greci è che quando finiscono dicono passo, setimos, che dovrebbe significare passo, questi non lo dicono neanche una volta. E poi c'era anche la solita signorina, poi fanno anche degli elenchi numerici, quindi è tipico navale, che ne so, perché sono le temperature, no? Quindi un mistero, e questo è veramente una cosa micidiale. No, tienila conservata quella registrazione. Lo sai cosa sto pensando che possa esistere? Cioè, che possa essere qualche nave alla fonda a Porto Torres, per dire, quelle petroliere, qualche cargo o qualcosa del genere, che comunicano tra di loro in banda cittadina. No, no, qua c'erano tutti i segnali procurativi possibili e immaginabili, quindi no, non è un segnale locale, è una maniera più assoluta, perché vedi il segnale che sale e scende e poi sotto vedi una miriade di stazioni grandi, piccoline, eccetera, che arrivano senz'altro tutto dall'est. Vediamo questa sulla ritorno. Hai sentito che stacchi che hanno? Sì, sì, ma a me sembra, guarda, per quel poco che conosco il russo, nel senso, l'Azerbaigian non può essere, perché l'Azerbaigian la conosco, perché quel satellite che ascolto io è proprio in Azerbaigian, quando guardo le partite la conosco, nel senso, non è che lo so parlare, però riesco a capire cosa dicono più o meno, perché quando parlano di calcio eccetera, perché c'è il commento, e poi mi guardo i programmi e la lingua, per certi versi c'è qualcosa di latino, qualche parola, però questa qua tu dici che non è russo. Tavarish passiva. Mi chiediamo a Natalino, che lui è andato in Russia, ha fatto l'accoso, la campagna di Russia. Ti ricordi quando eri giovane, Natalino? Ah, sì, è riuscito a capire di che lingua si tratta. Normalmente se fosse russo, cinese, non ha problemi. Invece in questo caso mi ha detto non identificabile. Oh. Mentre invece ho sentito un altro servizio, questa volta però sulla 22, durante la solita ricerca, che sembra un radiomobile, a 22487, senti che è chiara. Si sente anche lo stacco, questa è una donna. Aspetta che c'è Natalino, che Natalino ha fatto la campagna di Russia, gli stavo dicendo se lui quando era giovane cosa parlavano. Natalia, avanti. Karashov. Cosa hai detto? Grazie, in russo. Io c'avevo un'amica russa e qualcosa già la so. Andiamo, andiamo. Che appa? Prassima, vuol dire grazie in russo. Prassima. Vai Luca, anche a te, dai. Tu il russo lo sai parlare, Luca. E quello è coso, mi sembra cagliaritano sporco. Vai su Google e traduci. Vai Giaffa. Aspetta, ne sto cercando un'altra. Che c'era? Vabbè, comunque la stata è quella che c'è sempre. C'è sempre. Non so se Natalino sul 15 la senta, perché non è un segnale così banale poi da ascoltare, perché le ho provate tutte e poi sono riuscito a migliorarlo parecchio in USB, però proprio centrandolo in maniera certosina. Io ho provato a muovermi, a girare, però lo sento sempre un pochettino, sembra fuori frequente, è come che ci abbia qualche compressione di qualcosa, non lo so, è strano, nel senso non è chiara la modulazione, anche se il segnale è abbastanza forte. Boh, guarda, sono quelle cose che ti lasciano perplesso. Comunque stamattina facciamo dei colpi, arrivava tipo sventagliate, no? A volte era basso basso, poi di colpo saliva e poi discendeva, proprio una propagazione un po' strana. E sotto si sentivano tanti altri più piccolini, evidentemente la potenza ce l'ha questo. Non lo so, io quando l'ho sentito io si sentivano anche voci femminili, tipo telefono, qualche campanella telefonica. Infatti un po' di tutto. Boh. È strano comunque che qua in 27 posso capire, l'altra che era un radiomobile in 22, ancora. Ma poi. Boh. Natale, tu cosa ci dici? Che hai fatto la spia ai servizi segreti del Vaticano? Io poco fa ho fatto un paio di chiamate su in USB. Ma ce ne farà dalla propagation, perché ho sentito una e ho chiamato, però poi non ho sentito più nulla. Propagazione variabile, come il tempo. No, stamane sono riuscito in digitale, 5 watt sui 20 metri, mi ha risposto un tedesco pensionato pure. No, io ho provato poco fa, perché sentivo gente, ho fatto un paio di colpi, ho dato, ma niente. Perché è variabile, adesso inizia, c'è un sacco di americani stamane, c'è una preparazione micidiale, segnaloni proprio. Oh, infatti stavo facendo un casino di modifiche, anche qua è fatta. Cosa ti volevo dire? Vabbè, ma allora quando ti prepari per fare quei test? Tu me lo devi dire, dobbiamo trovare il momento opportuno. Ma ti occorre tutti gli ingredienti, zucchero, caffè, nocciole, quale cose lì? C'è via gli ingredienti? Non so se ho tutti gli ingredienti, ma non so se si trovano in commercio. Beh, basta andare nei negozi, li trovi, non è che... poverino di Natale, rovinati siamo. Va bene. Certo che va bene. C'è un freddino fuori che non ti dico. C'è un bel freddino. Solo che, Robert, se dobbiamo fare qualche prova, se tu c'hai questa apparecchiatura complicatissima che è formata da un computer, uno spinotto e il pezzo di cavo dello spinotto. Che dipende da che tipo di pezzo di cavo devo avere. Dovrei averla una di quelle interfacce in campagna, bisogna che guardo, di quando facevo packet io. Taglia Roberto, così almeno se la usa, potrebbe stare lì a morire quella interfaccina, tanto dentro ci sono i soliti due trasformatorini e basta, è un transistor per la seriale, una cosa giocattolo quasi. Tu di lì, su quello lì dovresti avere la famosa presa per le cuffie. Non so se c'è la presa di registrazione, ma non credo. Quello è troppo anziano per averla. Confermi, c'è solo quella presa davanti in cuffia, che è tra l'altro di quelle grosse, quelle tipo stereo. Dipende da che cosa stiamo parlando. Tutti gli apparati che ho hanno la presa per le cuffie, parliamo quelli seri, e poi hanno la CC1, la CC2 di uscita, e poi c'è quell'altra uscita, non so per cosa serve, che ti ho detto ieri. E poi guardo il manuale, che c'è anche tu tra l'altro, e lo spiega molto chiaramente. È così. Però se dobbiamo provare qualcosa ci dobbiamo spostare, perché sono qua, diciamo tra virgolette, disturbiamo. Non c'è problema, quando sei pronto dimmelo tu. Io i miei sono sempre pronti gli apparecchi. Noi quando facciamo e loro lavoro. 26 spicciolavano. Il problema è più se c'è un computer di stazione. Allora, io il computer me ne voglio mettere uno fisso. Comunque stavate parlando in due, cioè facciamo parlare un attimino a Natalino. Avanti Natalino, se no non si capisce niente. No, stavo dicendo che era sui 26 la frequenza dove eravamo noi. E c'era tutto il mondo lì. Capito? Io adesso controllo in questi giorni, provo a salire in campagna, la dovrei avere quell'interfaccia lì. Io non so se quella della RTTP, come si chiamava quel sistema famoso che c'era anni fa, se va bene quell'interfaccia. Quella che ho io è per il packet, ma penso che possi trasmettere in tanti modi. L'RTTY mi sembra che faccia, boh, adesso non me lo ricordo bene, là, perché tantissimi anni fa che lo facevo questa cosa qui. Agli alburi, quando c'era, come si chiama, Guglielmo Marconi, tu Natalieri, nel 1930, quando facevate i collegamenti intercontinentali. Poi io l'ho fatta a piedi, a cavallo. Ora beh, mica era lui che assicurava i contatti radio tra Garibaldi e il Regno d'Italia. Natalino, la vedi, cosa stavo dicendo, adesso me ne sono dimenticato. Io adesso voglio prendere un computerino di quelli a poco prezzo base, chiedo un po' qualche amico, a pensare che ce ne ho buttato uno da poco, me l'aveva dato mio cugino, ha detto te, se ti serve sono buttacelo, non era nuovo, ma per fare quei giochetti, i giochi che stai dicendo tu, penso andava, vada più che bene, perché computer portatili ce li ho, però voglio fare una cosa che non mi ingombri troppo, perché c'ho il ripiano dove ci sono le radio, c'ho una tastierina piccolina, mi sono comprato e voglio liberare, tenere un monitor così, di questi portatili non mi piacciono, l'ho messo in alto, due monitor nella specie di ripiano, nei ripiani che c'ho dalla stazione, e me li ho messi in alto, due monitor, in modo che non mi siano d'ingombro, come può essere un ingombro un portatile. Ok, di nuovo a te, Gianfranco. E io ero mezzo tentato di fare un omicidio, però poi ho detto, ma che te ne frega, ne hai già quattro che fanno quel lavoro, puoi buscare questo e metterci una specie di ACC dietro, ovviamente è molto ridotta, perché tutti quei contatti che c'ha, la maggior parte a noi non ci servono. Però l'apparato appena uscito con un bel buco di trapano dietro mi sembra un delitto, no? No, sto scherzando. No, io prendo, le ho comprate quelle a 13 puli, sono, che tra l'altro non sono neanche facili da trovare, le avevo ordinate da internet, ne avevo preso due, una già collegata e l'altra ho detto la collego per fare quei rilevamenti audio quando mi chiedono i controlli microfonici di intensità e di tipo di modulazione. Però ne voglio prendere una, cioè collegare all'altra, mi sembra continuare di collegare 3 o 4 di quei pin. C'è gente che sta parlando sotto, senti. Poi vediamo un po' se qualcuno vuole entrare. Quindi allora massa, TTT, audio di trasmissione, audio di ricezione, quindi sono quattro, dovrebbero essere in tutto. Sì, ma questi quattro, allora dal 13 puli faccio uscire, dal connettore 13 puli faccio uscire quattro cavetti, dai, detto volgarmente. Questi quattro cavetti come li devo mettere in RCA, in jack, se serve attaccare al computer, che tipo di collegamento devo fare? Jack stereo, come quelli che si usano per le cuffie per parlare con Skype, quelli lì. Quindi hanno tre contatti ognuno, quindi te ne servono due, magari li colori così non ti sbagli quando li inserisci. C'è qualcuno che voleva entrare sotto, mi sembra di sentire un beep, una cosa del genere, forse preparazione. Sì, ma scusa un attimino, il jack stereo c'ha solo tre contatti, c'è canale retto, canale sinistro e la massa, e se non ce ne servono quattro di contatti come facciamo? Il quarto praticamente è quello del PTT, che viene azionato tramite seriale, quindi devi fare di lì, se ti interessa, anche la trasmissione oltre che la ricezione, non devi fare altro che fare un circuitino che ha un transistor e una resistenza, quindi una cosa banale, e trasmetti il segnale di seriale praticamente in segnale elettrico, devi dare praticamente una massa al filo che esce dalla CC, senza fare grandi cose. La colleghi all'uscita seriale, può essere anche USB, tra l'altro perché molti computer la seriale non ce l'hanno più. È un circuito banalissimo, proprio anche i bambini sanno fare, dopodiché fai in trasmissione. In alternativa puoi usare anche il Vox, se non ti piace fare questo lavoro, che secondo me comunque è il migliore, però anche col Vox, una volta che la radio si accorge che c'è un ingresso audio sulla presa CC, manda l'apparato in trasmissione. Dipende dai gusti. No, ma quello che mi sta preoccupando non è tanto l'uscita della radio, che non c'è da sbagliare, attacchi quei puli, quei pin che ci sono dietro, è come arrivare al computer, cioè come far riconoscere, tu mi stai dicendo attacchi USB e quindi devi utilizzare l'ingresso micro jack, cioè mini jack da una parte, e poi uno di questi cavi deve andare alla USB, quindi devi utilizzare due cavi. Sì, per il PTT sì, però il cavo che fa la radio è unico, capito? Quella separazione la devi fare solo per il motivo che c'è che c'è di mezzo un banale circuitino con un transistor per mandare in trasmissione l'apparato tramite la seriale. Ma ripeto, se non sei interessato a fare questo ulteriore lavoro, azione il vox della radio e funziona lo stesso e non ci sono problemi. E così c'è solo a posto di quattro fili e lo puoi ridurre a tre. Vabbè, ma se lo fai sarebbe bello anche provarlo in trasmissione, non solo in ricezione. In tal caso ti occorre la famosa presa seriale USB, che tra l'altro quelle dei cinesi sono molto buone. Costavano, quanto costavano? 4 euro credo, una cosa del genere. Ci metti i drive e vai con quella. Però la cosa più importante è vedere se riesci a ricevere bene. Poi riprendi Natalinux. Eia, io ricevevo e trasmettevo benissimo. E usavamo apparecchi non come quelli che c'ha Roberto, CB normali usavamo, che avessero le bande laterali, giustamente. Lo so, ma Roberto lo serve anche per andare un po' a ascoltare anche fuori dal coro, capito? Vero Roberto, perché al dunque poi uno diventa curioso e le cose veramente interessanti poi sono ai piani di sotto. E tu utilizzare sistemi di trasmissione codificati, a meno che non c'è l'autorizzazione del Ministero. Allora, primo, non si sono spiegati per loro cosa significa codificato. Forse intendono le chiamate selettive codificate, forse intendono, e tra l'altro ogni baracchino c'ha anche, questo ce l'ha il CTS oppure le cose, oppure intendono il cripto, oppure ancora intendono le trasmissioni digitali. Insomma, non sono molto, molto chiari, per un motivo molto semplice, che chi ha scritto quella roba ha tralasciato che l'elettronica va avanti, le telecomunicazioni sono andate avanti, tanto è vero che pare che il cripto è sconsigliato, ma si possa usare sui PMR, mentre invece sia vietato su tutte le altre cose. Quindi lascia, anche queste cose lasciamo un po' perplessi, le solite leggi che non se ne capisce niente veramente. Di certo che a prescindere saresti in torto in tutto, anche per usarli, benché sia libera. Comunque, vabbè, quello è un altro discorso, a noi ci interessa il discorso tecnico, il discorso di ricevere quello che trasmettono gli altri, e poi se quando trasmetti chi se ne frega, non è un problema per noi. Capito, anche perché non ne frega niente a loro oramai, è una frequenza libera, l'importante è che non disturbi, ecco, il concetto è quello. Sì, sì, hai detto bene, hai fatto l'esempio più chiaro e immaginabile. Cioè tu usi un PMR dove sono già dei segnali scramblati, diciamo codificati, però secondo loro non puoi trasmettere tu direttamente su un'altra pedina, sulla 27 o sulle bande HF. Ma come, ti faccio l'esempio stesso banale, nel corso del codice della strada tu non puoi guidare con le ciambatte, però puoi guidare scalzo, perché non c'è scritto da nessuna parte che non puoi guidare scalzo. Infatti ho parlato con amici della strada e mi hanno detto, tu teoricamente scalzo puoi guidare perché non c'è nessuna legge che te lo vieta, ma non puoi guidare con le ciabatte, per cui guarda come fanno le leggi. Tra l'altro poi, quali sono le ciabatte? Perché in teoria potrebbe essere anche l'infradito, ma l'infradito è una scarpa talmente antica, tra le prime scarpe che sono apparse sul pianeta, che potrebbe avere il titolo ufficiale di scarpa, perché all'effetto pratico potrebbe essere anche una ciabatta. Vabbè, Asco, non ci infogniamo in queste cose così, in queste strane, perché se è un macello. Potremmo sempre chiedere all'esperto qua, Natalino. Natali, allora, fatti vivo. Ah, io ho sempre guidato con le infortunistiche. Altro che ciabatte. No, però dicono scarpe aperte o scarpe chiuse. Con le infortunistiche, Natali, tu con un piede solo prendi due pedali. E a noi ce la facevano mettere per forza. Se no, non ti facevano sanno guidare. Al comune non è scherzavano. Eh certo, per fare quel tipo di lavoro deve avere, anche noi in officina deve avere le scarpe antifortunistiche secondo il tipo di lavoro che fai. Sì, infatti, che poi a me l'architetto mi aveva detto, meglio se te le puoi anche togliere, tanto tu non è che quando guidi ti metti le scarpe normali, poi se devi fare altri lavori giustamente te le metti. Lui si trova l'ispettore e ti mette le carte. Che c'è Claudio? Sì. Cocomani. Caldarella. È bella, Cocomani, tutti Cocomani. Questo Claudio Spagliero, questo Cocomani, sempre in agguato, eh? Sì, sono andato a salutarvi, non è che devo stare in radio, vai. Ciao Gianfranco, ciao a Roberto. Ciao Cocomani. Ciao a tutti, dai. Mi sto ascoltando, ma sto facendo cosa, limite, ci sentiamo più tardi, ok? Vai Roberto. Eia, e Claudio guida con le cose, ho tacco 12, le scarpe a coso, con tacco dietro, e per quello rimane appoggiato. Con tacco a spillo. E le calzerrette. Eia. Comunque, se interessa a qualcuno, il Marcellone ha tappato un altro con la Madrid, è quasi finita. Adesso dice Inter-Napoli, no scusa, Inter-Napoli, Roma-Napoli, almeno un quarto, Juve-Inter o Inter-Juve, che sia. No, Inter-Juve, altro colpo di grazia, così è finita per sempre. E il Napoli ne invade tutto, ne invade anche l'Umida Alemania, perdendo, vincendo 2-0, è arrivato al pareggio 2-2, ha vinto 4-2, vabbè. Anche per stasera vinca il migliore, c'è il Milan Goma, devo chiamare. Avanti Gianfranco, ciao, buonasera a tutti comunque, al limite, mi sto ascoltando, al limite ci sentiamo dopo. Ciao Cla, buona preparazione di cena. Immagino, dato che fuori c'è un discreto freddo, che ti stai preparando per la cena. No, ma la verità abbiamo preparato già la pranzo, stasera si continua. Non so se c'è qualche ospite, non lo so, non ho chiesto niente a nessuno. Io la verità mi sono un po' sdraiato nella mia cameretta super. Niente, mi sono svegliato poco fa, quindi no, non so niente, adesso chiedo a mia moglie qual è il programma per stanotte. Ok, dai, ci aggiorniamo dopo, vai Robert, riprendi. Ehi, acca, siamo qua, dai, quando vuoi. Ok, vai già. Ok, infatti volevo dire, vabbè. Ma allora c'è, cioè, comunque sicuramente lo spinotto ACC ce lo dovreste avere, solo che non ti ricordi come collegarlo. Per quello che riguarda quello grande, lo spinotto grande per le cuffie, ce l'hai attaccato alle cuffie e non lo vuoi togliere. Quindi cosa si fa? No, uso la CC2, dovrebbe essere la CC2, non la CC1, il collegamento, utilizzo quello lì e basta, e lo faccio per il momento in ricezione, boh, come dici tu, lo collego al jack, bisogna sapere il polo caldo, i due poli caldo li metto, che cosa devo mettere? Beh, se sta mettendo un pollo caldo, io presumo o è allo spiedo o è al forno. Il pollo, no, a parte gli scherzi, rimangono due per il segnale e uno per la massa, il terzo per la massa, e quei due cosa ci metto? Non PTT che non mi serve, cosa devo mettere? E quattro, digli tu Natalia. Non me ne ricordo più di andare alla verità, come era collegata. Mi sembra che io avevo anche il cavo per il microfono, avevo in quella interfaccia. Sì, vabbè, sul microfono meglio non mettere mai niente, perché fa una distorsione che poi non si capisce una mazza. Vabbè, audio, guarda, tutte le trasmissioni, così come anche questa che stiamo facendo adesso, c'è la parte audio e la parte microfonica, tutto lì. Se vuoi fare solo ascolto, parte audio. Se vuoi anche fare la trasmissione, parte microfonica. Quindi quei due cavetti sono per quello. E in più ovviamente la massa che collega entrambi. Sì, ma voglio capire una cosa, perché due audio e non uno? No, in che senso perché due audio? Uno è l'audio microfonico e l'altro è l'audio del ricevitore. E molto ci vuole ha capito, diciamo, ci vogliono due fili, no? Con quello comune che è di massa, abbiamo, è come avere due fili audio massa e sull'altro microfono massa. Ok, è più chiaro? Sì, sì, ho capito, l'altro riguardo sarebbe il PTT, però quello che voglio capire è, siccome io devo solo ricevere, teoricamente ne bastano due, basterebbe la massa e l'audio, e boh, non il PTT e il microfono. Arrivo a un'udienza. Ciao, buonasera a tutti, buonasera. Comunque, cambiando discorso, adesso mi è venuto, è morto anche il padre di Coso, di Rubrofetta, di Gianni Rubrofetta. Lo so. L'ho visto oggi su internet, non lo conoscevo, ma mi dispiace, infatti l'ho mandato le condoglianze. E beh, tutti morti sono, avanti. Sto facendo una cosa... E beh, Roger, come va? Che fa? Un attimo, mi hanno chiamato al telefono. Fai. E Roger, va lavorando te? Sono qua. Oggi sono a riposo. L'altro giorno ce n'era un altro di Porto Torres, un certo Mario. Ti è capitato di sentirlo, Roger? Sì, sceriffo. Ah, sceriffo si chiama. E quello è un vecchio cibi di vecchia latta, diciamo. C'era anche ieri, ciao. Ciao Giulio, ben sentito. Ah, quindi io pensavo fosse di fuori qualcuno che era qua e si è trasferito, un trasfertista. No, sì, infatti è di fuori. Cioè vive, è di qua, però per fuori di fuori. Bologna, quella zona lì. Sì, ieri stava facendo questo con me e anche con Claudio di Porto Torres. Eravamo tutti e tre insieme. Okay, ma se Antonio, lo dico io, di Porto Torres, il fratello di un collega. Questo io non lo so. So che si fa chiamare Mario ed erano loro due, questo con Claudio, poi sono entrato io e abbiamo chiacchierato un quarto d'ora, 20 minuti più o meno. Abbiamo fatto questo, poi loro erano impegnati e abbiamo dovuto chiudere. Vabbè, buonasera. Ciao, non ben sentito. Io sto facendo Antonio sceriffo, con il portatore che ogni tanto entra. Ma questo Mario non l'ho mai sentito. Vabbè, sicuramente una persona di una certa età, una persona tra l'altro squisita, per come l'ho sentita io, è una persona che mi piace molto dialogare con lui in frequenza. Va bene, molto bene. Avanti, Roberto. Ma c'è la partita adesso, ho visto Barcellona ha preso 2-1, adesso ha fatto 2-1. Cioè dovrebbe essere Napoli, cos'è? Le 18 o le 18:30? Se infatti stavo guardando Barcellona io. Barcellona quest'anno è un disastro. Ma carità, che squadra di cadaveri, meglio della Juve. Tenetemi forte che sta arrivando un bel tempo. Io so, piano arrivando il tempo. Incominciando la domenica prossima, che a quest'ora sarà buio presto. Che bello, un po' di fresco. No, ieri ha fatto una bella giornata, sembrava una giornata estiva, però un caso. Ieri sì, anche oggi non è che ci sia freddo, almeno io non ne ho sentito per niente freddo. No, oggi c'era la festa a Usi, non c'era. Non ci siete andati. E che festa c'è? È la festa del paese. La prima cosa che sento, ma Sant'Antonio? Non lo so come la definiscono, come la chiamano loro. Non so proprio niente, perché quelli a fianco a me sono tutti di Usino, non mi hanno detto niente. Però sì che non lo sappiano nemmeno. Per cui, cosa vuoi che ti dica? No, la prima cosa che sento, normalmente si fanno a pizzi e me lo dicono, vedi, domani siamo, lunedì veniamo stanchi. Sarà una cosa che c'è a no? Non lo so che festa si chiama, come se la fanno, come l'hanno definita, non lo so. So solo che c'era la festa a Usino e basta, tutto lì. Un po' di... come sempre, no? Come tutte le feste paesane, un po' che valore. La festa del paese dei Balucchi, come dicevo a Gianni Bravo 2, che mi diceva, Tattariso, mandica ciao, vai, usilo il paese dei Balucchi, dici. Ciao Alfa, e poi uno. Ciao Giù, buonasera. C'è anche Eugenio, ma fa di me. Mi dovete scusare, ma non l'ho sentito, cioè con lo squelci. Ciao Eugenio, come si chiama il cognome di Gianni Rubrofetta? Se paio di quelli spiazzati adesso. Accidenti, tra voi e voi ce ne sono impiccato. Comunque buona serata lì. Adesso vuole vedere se ti dico. Ok, no, volevo vedere appunto sul giornale, l'hai letto, Robert, il necrologio sul giornale c'è? No, ha messo una specie di messaggio su internet, ma non pensavo, si chiama Gavino il padre comune, Gavino, adesso me lo metto, pensavo fosse riferito a qualche amico, oppure ho detto ciao babbo, ho detto cazzo babbo, allora ho mandato subito il messaggio, non lo sapevo che era il babbo. Ho capito, dopo guardo al computer, vediamo un po' se lo conoscevo questa persona, se c'è, sempre che ci sia. Anna. Sanna, cosa hai detto? Ah, mi sa tanto Sanna. Ok. Va bene, dopo guardo, vabbè, purtroppo la vita è così, cosa ci vuoi fare? Io l'ho sempre detto, la vita in certi momenti è crudele, anzi, crudelissima. Vai, Natà. Io non lo sento a Eugenio. C'ho 7 di QRM, dimmi tu. Anch'io ho sempre sì 7 di QRM, ma qui nella zona ci deve essere qualche macchinario che crea QRM, perché è strano che la Game Master possa avere tutto questo QRM, però devo dire che è un QRM che ti consente di ascoltare anche le modulazioni anche a Santiago 5 e Santiago 4, non c'è problema. Questo bisogna riconoscerlo. Non capisco comunque questo segnale così eccessivo di QRM. Avanti, Roberto. Io ce l'ho permanente, meno di 6 mai in questa stazione. Ma ci deve essere un qualcosa. Anche ieri stavo parlando con Colmario di Porto Torres, appunto, e mi diceva che ha detto queste esatte parole. Qua ci sono tutti i problemi di questo mondo, in frequenza, QRM, eccetera. Quando ero su dice non sentivo niente di QRM, silenzio assoluto praticamente. Non capisco che possa essere un fatto climatico. Non ne ho proprio idea, sinceramente, teoricamente il problema dovrebbe essere più nelle parti alte d'Italia, che c'è saturazione di stazioni ripetitrici, di punti radio, eccetera, eccetera, telefonia, elettricità. Pensando che noi siamo pochi in Sardegna, il disturbo dovrebbe essere inferiore, a meno che non stai sotto qualche centrale elettrica. Ma non saprei la verità, però ripeto ancora una volta, è uno QRM che già mi consente di ascoltare anche stazioni basse, come ad esempio quando ricevo da Alghero, perché voi lo sapete, come ho sempre detto, io per Alghero sono in una condizione molto precaria sia per la trasmissione che per la ricezione. Però nonostante tutto il QRM7 io riesco ad ascoltare anche Santiago 5, 4 e 5 riesco ad ascoltare ugualmente. Non so cosa dire, è un QRM diciamo poco bello da vedere, però non c'è mancanza di cosa, di audio o più di tanto, ecco, tutto lì. Avanti, Natà. Ma è il fatto che io ho anche l'antenna bassa, oltre a avere questo QRM c'ho l'antenna bassa e quindi non riesco ad ascoltare Porto Torres, capito? Perché lui quando io lo sento mi arriva basso. Adesso è diventato Gianfranco, avanti Gianfranco. Senti il tuo colpo importante, sembrava lui, avanti Gianfranco. Nulla, è oggetto a te. Sono qua. Prendete un attimo, sto facendo una cosa. Vai Giulio. Ok, no, io a Eugenio Natale lo sento molto bene, non c'è problema, modulati mi arriva a Santiago 9, 9 più 2 più o meno, dunque il segnale è anche accessibilissimo, è buono diciamo, non buonissimo perché non siamo molto più in là del 9, però ci arriva con quel segnale, non c'è problema. E la radio poi non se ne parla nemmeno, la radio è ultima, per cui va bene così. Tu mi dirai, ma tu sei più vicino a Porto Torres? No, tieni in considerazione invece la mia condizione del posto dove abito, che sono nella valle rispetto a Sassari. Sì, ma io penso che sia anche andata lì. Il discorso traffico automobilistico, soprattutto tu, che ce l'hai sotto casa, un po' di meno io, perché anch'io ritengo che sia un dovuto anche al traffico automobilistico, perché qua sulla 131 c'è un vai e vieni continuo di macchine, però io sono distante, dalla 131 sono almeno 5, 6, 700 metri, forse anche 800, Natali. Lo so, ma la colpa secondo me è dell'antenna che è troppo bassa, capito? Oltre che rumorosa questa antenna, perché è anche bassa, quindi è per quello che serve, i segnali sono quelli che sono e mi viene male ascoltare, perché anche quando lo sento a Eugenio mi arriva basso a me, ma è colpa perché l'antenna è bassa e quindi il segnale mi arriva come non dovrebbe arrivarmi. In campagna arrivavo sparato a Porto Torre, sentivo tutti, favidavo con tutti si può dire, ma l'antenna era in un'altra posizione. Quindi non è un problema mio. Natale, sai cosa c'è? Tu c'hai vicino alla fontana del Rosello, ci sono le pompe della fontana del Rosello, insomma è sempre attaccata a 24 ore 24 e ti disturba l'antenna. Tu vai la notte e ne tagli la corrente. E non lo dia faurami. Io già mi mettevo la mantella di notte con i cusi, con le matasse di cavi per stendere i puli insieme a Marco Scorpio. Non stai dicendo niente. Via Claudio. Ciao Giulio, ciao anche Giulio, non stai dicendo niente, non lo vuoi, non fai pompa 24/24, assolutamente. Le pompe entrano in funzione dal momento in cui si abbassa il livello della scuola e gestito la Monte Oro. Buonasera a tutti e quel X per me. No, era una battuta, stesso che sai cosa attacca la pompa, figura. Ciao Claudio. Vabbè, no, io dico che il QRM c'era sotto casa, c'era Natalino, il traffico automobilistico e quello comporta moltissimo QRM, almeno per lui. Io ripeto, qua sono in una zona, San Claudio sa dove abito e sa benissimo che sono molto distante dalla 131, però anche qui all'interno della borgata non è che ci sia poco traffico, qui continuamente su e giù le macchine da una parte e dall'altra, per cui sarà probabilmente quello anche il problema. Ciao Claudio, avanti. Ciao, ciao, buonasera a tutti, sono entrato solo così per puntualizzare, perché altrimenti si bruciano, bruciano delle autonomie particolari, capito? Dice un vascone a Monte Rosetto, dal momento in cui il vascone si abbassa di livello, allora intervengono le pompe che aspirano dalla mandata di Monte Oro, niente di che. Va bene, buonasera a tutti, ciao anche Eugenio, ho ben ascoltato un po' tanto, direi tu la stessa cosa, ma io gano per radio non aggiungo più. Avanti Eugenio, buonasera a tutti, comunque rimango in ascolto, vai Eugenio. Buonasera. Ho sentito anche prima portare. Purtroppo le ore di lavoro, quando esco da lavoro io lo accendo ma non c'è nessuno, faccio anche qualche chiamata ma non c'è nessuno. 8:30, 9:15, ma con le ore state cenando, quindi gli orari non coincidono. Aspetta, sei entrato Gianfranco. Gianfranco ci sei? Forse è ancora al telefono. No, ieri abbiamo fatto una chiacchierata con Gianfranco sulla tardi, le 11:15, 11:30 mi pare. Ci hanno iniziato a raccontare e si è fatto tardi, vabbè, tanto era sabato, non dobbiamo fare niente. Ditemi un po', ma avete ascoltato voi su canale 15? Vi capita di sentire questo segnale strano di cui stai parlando, tipo lingua russa? Io qualche volta ho sentito, ma non ho capito l'accidente, quello che dicono, il problema è quello. E a me che mi frega proprio quello, il fatto di non capire il linguaggio. E allora quando io vedo canali dove c'è gente che parla un'altra lingua diversa dalla mia, io cambio subito, intanto non mi dà fastidio addirittura non capire quello che dicono, figurati, vabbè. Io no, neanche, perché c'ho un chiodo fisso qua su 10, non cambio mai, quindi no, non mi è capitato. perché sembra una roba marittima, di qualche nave, di qualcosa, perché si sente un rumore tipo di una radio a bordo, poi si sente qualcuno che parla, anche voce femminile, poi si sente una campanella o qualcosa del genere. L'ha registrato mi pure coso Gianfranco questo segnale, ma è spesso fisso mi, e a me arriva intorno a 9, solo che trasmette in una banda laterale strana, tipo con molto molto stretta, che non riesci a capire cosa dice. Ma a me, scusate un attimo Nathalie e Claudio, ma a me mi è capitato di sentire addirittura il coso, come si chiama, il richiamo telefonico, come quando uno fa la chiamata, no? Che si è in attesa della risposta, quella specie di bip che fa il telefono, io ho sentito anche quello, Roberto. E poi dice, ci sono delle, sembra una voce registrata, tipo quando c'è il bollettino del mare, sembra una cosa del genere, infatti è molto strano, soprattutto su questa frequenza. No, sto parlando del canale 15, questa frequenza c'è, però sul canale 15. Eppure un mese arrivi, stavano parlando in tedesco, avete parlato in due, Natalino e Giulio, ripeti prima Giulio e poi Natalino. Ho detto sì, questa frequenza sì, però sul canale 15 io, ma mi è capitato un paio di volte, ma subito giro, non mi interessa più di tanto quando sento certe cose. Vai Natalino. Ho detto che io in PMR ho sentito oggi i tedeschi e mi arrivava anche forte. Nel ricevitore li ho sentiti, stavano parlando proprio in tedesco. Vabbè, poi c'è anche qualche camperista, i camperisti li usano i PMR. Ma io addirittura in 433 nel PD, un po' di tempo fa, avevo sentito due che dialogavano, due radioamatori di fuori della penisola, che arrivavano a bomba tutti e due, chissà con quale potenza e con quale antenne stavano uscendo, e nel PD però, Non lo so, questo del 15 è molto strano. Ok, vediamo se Gianfranco è rientrato. Gianfranco ci sei? Era al telefono. Eugenio, a te il mic. Ho detto che di bordo mi sembra strano che usano tutte le frequenze, capito? E quello infatti che è stranissimo, non usano assolutamente quelle frequenze lì. Sembra, io ho pensato che fosse qualche nave alla fonda, qualche cargo, qualche petroliera, che magari tra di loro si parlano. E può darsi qualcosa del genere, evidentemente saranno delle trasmissioni, tutto sommato ho trasmesse anche in codice, perché ripeto, io non è che sono stato lì ad ascoltare più di tanto, ho sentito com'erano e allora ho subito cambiato, perché no, tanto non potevo decifrare niente, tanto non capivo l'accidente di quello che trasmettevano, per cui va bene così. Avanti Nata. E là io sono in ascolto, là che adesso facendo il computer devo fare cosa devo fare, al limite ci sentiamo più tardi. Cacca, tu mi non segnalarlo, ma stavani a Dungo, chi tu, come si chiama, Alfred, buh, la te la partita giù. L'ho spento, perché stavo appunto parlando a Baracchino, l'ho spento. No, ma che allora stavo guardando un po' quasi, adesso l'ho spento. Ma magari l'accendo fra un po' di nuovo, ma va messo pure presente. No, non ne voglio vedere altro calcio sino a stanotte. Oh, gli ha toccato il piede, se no era come ha calciato solo davanti al portiere, gli ha toccato appena appena il piede quel giocatore del Napoli, se no ha sfiorato il palo. Ma hai visto che era Natale Mattozza che ha preso la Roma quei giorni scorsi? Se i gol ha preso, tu pensa che Mourinho in tutta la sua carriera di panchinaro, cioè da allenatore, insomma oltre 1000 panchine ha fatto, non aveva mai subito una sconfitta così sonora. Già l'ho visto anche oggi la Lazio, bene andata. No, lo so, io non ho guardato oggi, stavo guardando poco fa, ma se non è basta, guarda, oggi no, oggi ho voluto essere assente dal calcio, perché voglio concentrarmi stanotte, perché stanotte farò anche tifo in me stesso, da solo, senza esaltarmi, e spero che vinca la Juve, perché 3 punti ci servono, servono anche all'Inter, però alla Juve le servono di più. Sono un po' pochino egoista, però così da simpatizzante juventino, non da tifoso scalmanato come tanti, assolutamente no. Tant'è vero, quando la Juve segna io sono seduto in poltrona tranquillo, come se non fosse successo niente, non come certe persone che si alzano, si sbattono la testa al muro, fanno un casino del diavolo solo perché hanno fatto un gol alla loro squadra che loro simpatizzano. No, non sono così, io sono tranquillo e in tutti i sensi, sia quando subisce che quando segna a favore. Vai Eugicio, sì. Io stasera Netflix, sicuramente anche pizza, del calcio non me la frega un bel perché non me la fruzzi niente. Poi c'è MotoGP, a proposito, chi ha vinto la MotoGP, detto che c'è MotoGP, sa tu, è un genio. È mollato, ma quando è mollato Valentino non ne seguo più. Perché c'erano le tre Ducati, tutte e tre prime, non è proprio, però non ho seguito il risultato. Nemmeno io li ho seguito, mi sono fatto una pennichella a quell'ora, quando c'era il motociclismo, per cui non mi sono interessato più di tanto. Ma la stessa cosa ti dico, Eugi, anch'io sono sempre stato un fedele tifoso di Valentino Rossi, però purtroppo l'età passa per tutti e anche lui, risuperati i 40 anni, ha fatto bene anche a ritirarsi. Qui si è considerato con 40 anni per il motociclismo cominciano ad essere un po' tanti, per cui è meglio che si goda la vita adesso con i suoi milioni che si ha guadagnato, eccetera, eccetera. Comunque oggi era l'ultima gara di Valentino Rossi. Vai Roberto. L'ultima gara in Italia di moto, ma non hai visto che lui vuole fare la 24 ore di Indianapolis, vuole fare una squadra di ruote coperte per correre ai campionati americani, eccetera, eccetera. Ehi, ancora quello è tutto da decidere, tante cose gli sono state appioppate, che voleva fare anche il pilota di Formula 1, tante cose, adesso si vedrà col tempo. No, ma io penso che Valentino Rossi si sia ritirato non tanto per i suoi 40 anni, ma perché ha la donna incinta e allora ha voluto magari dedicarsi a formarsi la famiglia. Io ho pensato a quello e ha fatto bene, secondo me ha fatto bene. E che te lo fa fare a rischiare in uno sport così troppo pericoloso, visto e considerato che ha avuto una brillantissima carriera, 25 anni, da grandissimo campione, forse uno degli unici piloti del motociclismo che abbia vinto in tutte le classi, a partire dalla classe 1, 2, 3 e poi addirittura in GP, per cui grande campione, veramente, forse inimitabile, io penso Robert. Sì, sicuramente è uno dei migliori, numero uno secondo me è sempre Giacomo Agostini, come diceva tutte le gare, 16 Gran Premi fatti e 16 vinti, sia in 350 che in 500, erano altri tempi, c'è da dire, però Valentino Rossi secondo me si doveva ritirare un paio di anni fa, perché doveva finire come ha fatto Maldini, ai massimi livelli, è inutile prolungare come sta facendo Buffon, come ha fatto tutti, tu devi finire da campione, no, decadente, tu sei arrivato al top, dopo un anno ti fermi. Mi dice basta, ho raggiunto il tocco del massimo, tanto problemi di soldi non ha visto, per cui cosa cavolo te ne frega, fai correre gli altri. Quello è una questione di mentalità, ognuno ha la sua mentalità, evidentemente lui ha voluto guadagnare gli ultimi milioni di questi ultimi due anni per rinforzare magari il suo conto in banca, che cosa ne sappiamo noi, perché sicuramente, però adesso sta venendo fuori il fratello di Rossi, anche quello mi sembra un piccolo campioncino, adesso non mi ricordo come si chiama, anche quello è un piccolo campioncino, e speriamo che possa fare una grande carriera come ha fatto il fratello. Non lascia stare, non è così, adesso c'è l'altro italiano che sta andando forte, come si chiama? Adesso non è il nome. Lui si voleva ritirare prendendo il decimo mondiale, però non ce l'ha fatta. Magnale, così sta dicendo? No, l'altro, Cappuccini, no, non mi viene il nome. Non è che l'abbia seguito più di tanto, prima sì lo seguivi quando c'era Valentino Toppo, adesso ormai non mi piace più. Mi adesso un po' la Ducati sta cercando di valorizzare il discorso, perché prima cazzo non vedrebbe sapresti se vince. L'altro giorno hanno ricordato Simoncelli, poveraccio, già 10 anni, non credevo che fossero passati già 10 anni da quando aveva avuto quel maledetto incidente. Comunque anche Simoncelli era veramente un grandissimo campione, peccato ragazzi, che abbia avuto la sorte che ha avuto, perché probabilmente sarebbe stato oggi forse il numero uno del motociclismo italiano. Vai Roberto. Sì, è quell'altro ragazzino che è morto 15 anni, prima gara, primo incidente, lasciamo perdere. Motociclismo stanno prendendo delle cose, troppa gente sta correndo. Infatti ecco Valentino, devono ridurre il numero dei partecipanti. Sì, va bene, il numero dei partecipanti è uno dei motivi che potrebbe essere, diciamo, la gravità dell'incidente quando succede, però non è detto correre in 20 o correre in 10 per dire, no, e quando tu sei in gruppo, che e soprattutto quando si parte tutti in gruppo, sai, tutti quanti vogliono prendere la prima posizione, e lì è il momento più difficoltoso e soprattutto più pericoloso in caso di cadute. E sei in gruppo, uno basta in alto e succede quello che succede. Speriamo che non succeda mai più, per carità. È uno sport bellissimo perché attrae molto la gente che si appassiona, però è talmente pericoloso, molto ma molto più bello per me, per i miei gusti, molto più bello della Formula 1. Poi c'è gente che dice che la Formula 1 va bene con senso così. Vai Ugi. Come la Formula 1 non mi piace, l'ho abbandonata da anni, non mi ha mai dato quella voglia di continuare a guardare, perché chi passava prima arrivava prima, per me è una paranoia, no? Faccio molto GP diverso, sorpassi, più emozionante. È tutto un altro spettacolo, assolutamente. Col motociclismo si vede la capacità e l'abilità del pilota. Con la Formula 1 vai contro Rudy, sì, anche quello può essere bello per chi è appassionato, ma a me sinceramente non mi ha mai, io non ne guardo mai Formula 1, proprio perché ritengo che sia uno sport, sì, bello, incantevole per chi è appassionato, ma a me non mi dice niente di in fase in quanto aspettare.